Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuto a Fiorenzo Corti, medico di famiglia, vice segretario nazionale della Federazione dei Medici di Famiglia. Dottor Corti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho invitato il dottor Corti per leggere e commentare con noi i risultati di un'indagine che fotografa un cambio di passo importante del mondo sanitario, in particolare dei medici di medicina generale che, proprio grazie all'esperienza maturata durante l'emergenza Covid, riscoprono, per così dire, la telemedicina come soluzione per soddisfare i bisogni di cura e assistenza. Questa sembra un po' la morale che si ricava dai risultati della ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano, che raccontano un interesse e un apprezzamento crescenti dei medici nei confronti della telemedicina, che per anni, diciamocelo, è stata considerata un po' la Cenerentola, dottor Corti. Certo. L'interesse per la telemedicina, soprattutto in questo momento quando c'è stato il lockdown, dove siamo stati costretti a limitare l'accesso agli studi medici utilizzando gli strumenti che utilizziamo nelle attività private, quindi con i nostri familiari, i nostri amici, che sono WhatsApp, le mail, Telegram, gli SMS, che presentano assolutamente molti problemi di privacy. E noi avevamo però la necessità di mantenere aperto un canale di comunicazione con i pazienti e la telemedicina indubbiamente ci darà la possibilità di tenerlo aperto questo canale, garantendo un'affidabilità diagnostica. Io penso, se devo vedere una dermatite di un paziente, devo avere uno strumento che mi permetta di trasmettere un dato che sia veramente visibile, una necessità anche di una refertazione da parte di uno specialista, e io sto pensando a un elettrocardiogramma rispetto ad un esame di laboratorio particolare, oppure una conferma diagnostica, nel senso, noi abbiamo un sospetto, però a questo punto condividiamo con lo specialista questo nostro sospetto e abbiamo anche una conferma diagnostica, oppure trasmettere alcuni dati che permettono, uno, di non far muovere il paziente, ma nello stesso tempo garantiscano anche la riservatezza dei dati. Questo è un aspetto molto importante. Assolutamente, ma dottor Corti, quali sono i servizi di telemedicina più apprezzati dai medici? Più apprezzati in questo momento sono proprio il teleconsulto, sì. Con un medico di famiglia che permetta al paziente, senza muoversi da casa, di avere un parere, oppure si può discutere su alcuni esami di laboratorio, anche normali, perché molte volte poi si prendono degli appuntamenti, il paziente viene in studio, gli esami sono tutti normali, ha bisogno di essere anche tranquillizzato, o altrimenti se sono alterati, per valutare l'urgenza di una visita. Un altro aspetto importante è il teleconsulto con lo specialista, che può essere sia un colloquio con lo specialista per approfondire un caso clinico, oppure discuterlo e valutare il da farsi, o altrimenti anche per refertare un esame diagnostico che è stato registrato nello studio del medico di famiglia. Sto pensando ad un holter pressorio, sto pensando ad un holter cardiaco, sto pensando ad un elettrocardiogramma. Esiste un altro aspetto molto importante che soprattutto si è evidenziato in questi ultimi tempi con il Covid, il telemonitoraggio per pazienti fragili che sono a domicilio, dove c'è la possibilità di registrare in continuo, oppure facendo 2-3 rilevazioni al giorno, dell'elettrocardiogramma, della saturimetria, del peso, della temperatura e della glicemia. Questo grazie a tecnologia Bluetooth che permette di trasmettere ad una scheda GSM a un centro servizi dati di questo paziente, e nel momento in cui il centro servizio rileva che questi dati sono alterati, sente il medico di famiglia che poi si mette in contatto con il paziente. Questa è un'esperienza importante che è maturata soprattutto in Regione Lombardia con le cooperative dei medici di medicina generale. Dottor Corti, secondo lì proprio l'indagine da cui siamo partiti, 3 specialisti su 4 ritengono che la telemedicina sia stata proprio decisiva nella fase di emergenza. Per questo abbiamo buone ragioni per credere che, cadute le resistenze che in questi anni ne hanno un po' impedito l'utilizzo, la telemedicina verrà sfruttata come strumento per trovare risposte e anche soluzioni per bisogni e nuove emergenze. Lei che cosa prevede? Quali saranno gli ambiti in cui la telemedicina potrebbe davvero fare la differenza? Dunque, intanto dobbiamo sottolineare come la telemedicina non possa, sto pensando all'esperienza inglese di Babylon, non possa sostituire il rapporto alla visita tradizionale. Questo deve essere molto chiaro, non è che adesso ci affidiamo tutto al web, ai computer, ai tablet, agli iPhone. Certo, servirà a migliorare l'accesso agli studi, nel senso che ridurrà le code e permetterà quindi di dedicare più tempo all'ascolto del paziente. C'è un problema però, che nel momento in cui si parla di servizio sanitario nazionale, non si parla di realtà private che in questo momento si sono già molto sviluppate, ma qui il paziente deve pagare, e ci sarà la necessità di riconoscere e remunerare questa attività, e questo fa parte di una, però della riforma della sanità territoriale che tutti dicono sia essere ormai indispensabile. E noi ci risentiremo allora, certo, dottor Corti. Siamo a disposizione. Io la ringrazio, e dall'ambulatorio del medico di medicina generale ci trasferiamo ad una realtà di alta specializzazione. Parliamo dell'esperienza di un IRCCS, l'Istituto Neurologico Besta di Milano. In linea con noi abbiamo l'ingegner Francesca De Giorgi, che è direttore di sistemi informativi, e il dottor Davide Parison, direttore dell'unità operativa complessa neurologia 10, malattie degenerative neurometaboliche rare. Buongiorno a tutte e due, benvenuti. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ingegnere De Giorgi, parto da lei, perché nel vostro ospedale l'emergenza Covid non vi ha trovato impreparati, perché già stavate lavorando ad un progetto di televisite. Ci racconta come l'avete organizzato e riorganizzato anche in funzione di Covid-19. L'esperienza appunto della Fondazione, che peraltro è stata anche ripresa come casa nel convegno di presentazione della ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità appena citato, è un'esperienza che nasce sicuramente dalla consapevolezza che la pandemia è stata una leva per l'innovazione e la digitalizzazione dei processi. Di fatto la televisita per la Fondazione è diventata uno strumento indispensabile perché potesse essere garantito l'accesso alle cure per i pazienti infetti e non, tenuto conto anche della riduzione del rischio di esposizione al contagio e contribuendo quindi al rispetto delle regole sul distanziamento sociale. Noi siamo partiti appunto dalla necessità di avere una soluzione che fosse semplice, veloce, facilmente utilizzabile da tutti, integrato con tutti gli aspetti di processi organizzativi dell'azienda. Abbiamo preferito un approccio organico e sistemico, che garantendo che tutti i contatti avessero comunque una documentazione disponibile in cartella clinica elettronica e venisse in qualche modo salvaguardata la continuità della gestione clinica del paziente, predisponendo anche un sito per lo scambio delle informazioni. Allo stato attuale sono state erogate da tutte le strutture, quindi sia la branca neurologia che neuropsichiatria infantile, all'incirca 1500 prestazioni. Dottor Parison, è un bel lavoro, ma qual è stato il risultato più importante? Insomma, in che cosa la telemedicina ha fatto la differenza e quali restano ancora le zone d'ombra, gli aspetti un po' ancora da mettere a punto? Ma il risultato più importante è quello che noi siamo riusciti a garantire una continuità di cure e assistenza a decine, centinaia di pazienti fragili con malattie neurologiche rare che improvvisamente si sono venuti a trovare privi di ogni riferimento medico, e tramite la televisita siamo riusciti a portare il medico a casa loro col computer, in sostanza. Certo. Le zone d'ombra rimangono, a parte qualche difficoltà di connessione. Il problema che ha frenato la telemedicina in questi anni è proprio il mancato riconoscimento da parte del Servizio Nazionale Sanitario Nazionale Regionale della prestazione. E in questo l'emergenza Covid effettivamente ha cambiato le cose, perché ha reso coscienti della necessità di implementare la telemedicina, considerarla a tutti gli effetti tra le prestazioni remunerate del Servizio Sanitario Nazionale. Certo. Quindi noi puntiamo a sviluppare dei servizi anche per il futuro. Abbiamo detto che la telemedicina finalmente inizia a incontrare, dopo molti anni, il favore e l'apprezzamento dei medici. Mi chiedo come rispondono i pazienti, ma ingegner De Giorgi, voi per rispondere a questa domanda avete realizzato un questionario proprio di gradimento dedicato ai pazienti e alla loro esperienza. Qual è stato il dato più interessante che è emerso da questa indagine? Noi siamo partiti dalla consapevolezza che l'erogazione delle prestazioni in telemedicina rappresentassero comunque un percorso virtuoso in cui è fondamentale la centralità del paziente e le esigenze espresse in termini di salute. Quindi anche per individuare gli ambiti di miglioramento e di indirizzare al meglio il servizio abbiamo costituito questo questionario dove vengono sottoposte una serie di domande per valutare l'esperienza del paziente anche ai fini di analizzare sia aspetti clinici che tecnologici, sia per avere tutta una serie di elementi per analisi più puntuale di dimensionamento socio-economico. Il questionario è di circa 50 domande e sicuramente le più significative sono state quelle lì che abbiamo riscontrato in termini di efficacia della televisita, cioè oltre il 90% del campione valuta che la televisita è stata sufficiente per gli obiettivi che si prefiggeva e addirittura il 100% è riuscita a comunicare al medico ciò che desiderava dirgli. Questo è un risultatone. Sì, senza dubbio è assolutamente un grande risultato anche diciamo in termini di quella che poi è la partecipazione e la consapevolezza da parte del paziente. E dal punto di vista tecnologico abbiamo avuto un 9% di difficoltà riconducibili, come diceva il dottor Harrison, soprattutto alla qualità del collegamento, ma noi crediamo che soprattutto dal punto di vista dell'impatto economico in uno scenario di forte instabilità in cui occorrerà sempre di più garantire l'accesso ai fabbisogni di salute, i costi relativi alla logistica siano particolarmente significativi. Stiamo parlando comunque di un istituto che ha il 60% dei pazienti che vengono da fuori regione e abbiamo anche quindi chiesto di stimare quelle che potevano essere le spese sostenute con l'eventuale accompagnatore per raggiungere il BESTA con l'eventuale pernottamento e quant'altro, e stiamo parlando di all'incirca di 80 euro per paziente con punte che arrivano a circa 600 euro per quelli provenienti dalle isole. Dottor Harrison, chiuderei con il suo parere di clinico. Abbiamo visto come il gradimento dei medici è stato elevato anche tra i nostri specialisti, il gradimento dei pazienti è stato alto, abbiamo un apprezzamento globale che da 1 a 10 ci dà superiore all'8,5 sia da parte dei pazienti che degli accompagnatori dei caregiver. L'80% e più dei pazienti è interessato ad avere dei controlli ambulatoriali in futuro anche attraverso la televisita e la telemedicina. Quindi chiaramente la televisita non sostituisce la visita diretta face to face, ma costituisce uno strumento utile e importante nel follow up dei pazienti con particolari malattie croniche, magari che vivono a distanza dal centro, come per noi molti vengono da fuori regione, da lontano, e una valutazione anche tutto sommato affidabile e abbastanza della situazione clinica. Noi riusciamo anche a fare una visita neurologica, sia pur parziale, a distanza, per pazienti autonomi con assistenza dei caregiver si riesce a fornire una buona valutazione globale e a fare prescrizioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci aiutato così a fare un po' il punto della situazione. Dottor Harrison, ingegner De Giorgi, grazie, io vi auguro una buona giornata. Ringrazio Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Alessandro Marco Tulli in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.